Ecco, come dico l'onore, quale presidente pro tempore dell'Istituto Trentino di Cultura, di aprire questo incontro che vuole fare memoria ad un anno esatto dalla morte di un eccezionale statista, Bruno Kessler. Bruno Kessler era un uomo schivo e restio ai presenzialismi televisivi. Perciò il dottor Faustini, che ha corrisposto a un invito di predisporre un filmato che ce lo ricorda, l'ha fatto attraverso riprese televisive molto poche, e vedremo quindi questa sintesi delle poche presenze televisive che ricordano Kessler. E quindi ringrazio il dottor Faustini e la dice che ha operato questo sforzo in breve tempo per questo filmato. Prima di passare alle immagini, successivamente poi alla commemorazione ufficiale, vorrei illustrare brevemente il senso dell'iniziativa che con il rettore dell'università, il presidente della regione autonoma, il presidente della provincia autonoma di Trento, abbiamo inteso dare a questo anniversario. Il senatore Kessler ha improntato del suo forte spirito ideativo e insieme della sua saggezza di realizzatore tanta parte delle realtà politiche, amministrative, sociali, civili di questa provincia e dell'intera regione. Ha dato il suo imprinting all'assetto dell'autonomia trentina. Ma qui lo ricordiamo in primis per le due iniziative che hanno segnato la prima svolta qualitativa nel suo cammino di statista. La promozione del Istituto Trentino di Cultura e attraverso di esso dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali, poi libera facoltà di sociologia, la prima facoltà di sociologia in Italia, iniziale nucleo dell'attuale università. Vorrei aggiungere che queste due realizzazioni sono state il punto di partenza e non di arrivo di quell'attenzione costante che Bruno Kessler ha portato alla promozione della ricerca, anche tecnico-scientifica, e che lo ha condotto a fare di questa realtà del TC in Trento, attraverso in particolare viste, realizzazioni di avanguardia a livello internazionale. Quelle realizzazioni che rendono così pionieristica l'attività in questi anni della provincia autonoma e del nostro istituto. Anche perciò, per questa collocazione, per questa focalizzazione della commemorazione, la relazione sarà svolta dall'amico professor Umberto Potocnik, il quale 30 anni fa, il nostro consiglio personale e sapienza giuridica da par suo per la fondazione statutaria di questa università e credo per la normazione di altri progetti culturali di Bruno Kessler. Anche perciò questa commemorazione sarà chiusa dall'intervento del rettore della nostra università, il professor Fulvio Zuelli. Abbiamo poi chiesto che ricordino il senatore Kessler attraverso la loro personale memoria e per il senatore Andreatta anche per la sua consuetudine e amicizia, i professori viventi facenti parte del primo comitato ordinatore dell'allora Istituto Superiore di Scienze Sociali, il professor Norberto Bobbio, il professor Beniamino Andreatta, Francesco Alberoni e Pietro Scoppola. Di questi quattro autorevoli invitati abbiamo la testimonianza scritta che non possono essere presenti e che leggeremo, che io chiederò al consigliere Gobbi di leggere la bella memoria che ci ha inviato, il bel ricordo che ci ha inviato di Kessler Norberto Bobbio, e poi vi è un'altra comunicazione scritta da parte di Pietro Scoppola, entrambi, Bobbio e Scoppola, impegnati e insieme con Francesco Alberoni che manda un telegramma di scuse. Mi si è consentito, prima di avviare l'incontro, attraverso questa proiezione, di aggiungere qualche pensiero venutomi riflettendo in questi mesi sulle motivazioni che mi hanno indotto ad accettare, su invito di amici e per la fiducia unanime del Consiglio di Amministrazione dell'ITC, una così ardua e improbabile successione. Credo di essere stato 30 anni fa toccato dal carisma di Kessler. un'impronta che si è risvegliata a distanza di decenni. Mi sono interrogato da sociologo su quale fosse il carisma del forte statista e del maieuta di tante innovazioni nella realtà trentina e regionale. Max Weber, il teorico del potere carismatico, ci dice che se il carisma di una persona, connesso alle relazioni sociali rigorosamente interpersonali, è un evento di straordinario, esso è di frequente effimero. Ma se questo potere carismatico acquista un carattere durevole, se non si ferma allo status nascendi, allora esso, potere carismatico, deve maturare, dice testualmente Weber, in senso tradizionale o razionale, oppure in entrambe le direzioni. Ebbene, io credo che il prolungato carisma di Bruno Kessler sia stato, come dice Weber, in entrambe le direzioni, con un impasto di elementi tradizionali e insieme di spinte di razionalità innovativa non comuni. C'è un tratto in ogni caso che mi sembra interno e peculiare al carisma dell'uomo che oggi ricordiamo un anno della sua morte e che ricordiamo con gratitudine. La sua salutare, periodica insoddisfazione per l'opera compiuta, anche se bene compiuta, e il desiderio di rompere la routine, specie la routine burocratica che si andava via via sovrapponendo alla tradizione. Di qui il suo bisogno di investire da un lato nella ricerca tecnico-scientifica aperta sul mondo contro l'assistenzialismo e dall'altro l'attenzione alla tradizione comunitaria locale nel momento in cui lo stesso benessere diffuso poteva corroderla. Quella tradizione comunitaria e locale che ora l'amico professor De Marchi vuole ravvivare per la montagna trentina. A far luce sulla valenza di tante soddisfazioni creative che sono a mio avviso presenti fortemente nel carisma di Kessler, credo che sia, per chi lo sa e l'ha conosciuto, densamente esemplare l'ultima intervista concessa da Kessler poco prima di morire al direttore dell'Adige, Paolo Pagliaro. Cito, oggi, e cito sinteticamente, oggi manca un'idea del futuro, scrisse allora. C'è una grande capacità amministrativa, non c'è un progetto. Nulla di ciò che è stato fatto può bastare a garantirci un futuro. Occorre investire, crederci. L'ho già detto, continuava Kessler. Occorre investire in uomini, idee, ricerca. Su questo terreno pubblico e privato possono e debbono cooperare con reciproco vantaggio. Ancora, in Italia i centri di potere economico si stanno spostando. Ora si collocano a ridosso dei grandi centri di didattica e di ricerca. Prendiamo Trieste, continuava a chiedere. Con i soldi della legge sul terremoto ha messo in piedi un'area di ricerca che si è andata trasformando in polo scientifico di livello internazionale. Udine sta facendo lo stesso, continuava. In passato il Trentino, che è un passato molto recente, ha investito molto in questo settore della ricerca. Ho paura che adesso, concludeva Kessler, ci fermi tutto, che nessuno ci creda più davvero, che non si investa a sufficienza. Ebbene, non penso che potremo concludere questo nostro incontro senza assumerci come singoli e come partecipi di soggetti collettivi un impegno a rimuovere, se mai vi sono, i fattori che un anno fa portavano Bruno Kessler ad avere paura che nel campo degli investimenti per ricerca, sviluppo e formazione qualcosa si fermasse. Noi dobbiamo impegnarci a raccogliere in positivo il senso forte dell'ultimo messaggio del nostro nobile amico prematuramente scomparso. Su questo terreno della ricerca, pubblico e privato possono davvero e debbono, come si augurava Kessler, collaborare. Non lasciamoci perciò scalfire da qualche momento di non comunicazione tra pubblico e privato, né indugiamo a interpretare episodi di assestamento secondo criteri da statico gioco delle parti e delle rappresentanze formali. Troveremo presto, spero, come ITC, anche come ITC, le forme istituzionali innovative, perché le risorse del pubblico e del privato si incontrino meglio, anche strutturalmente, dentro gli spazi di cooperazione, a partire dal consiglio di amministrazione di quell'istituto che è stato l'inizio della grande progettazione creativa di Bruno Kessler. Ma facciamo in modo di dissipare, specie in tempi così difficili, anche in tempi così difficili, questa ultima paura di Kessler, e cioè facciamo che la sua eredità, che non potremo che assumere insieme, perché nessuno singolarmente credo possa assumersela, possa essere gestita con uno sforzo di innovazione e senza ricadute meramente patrimonialistiche. Potremmo raccogliere, non come singoli, ma come gruppo, un'eredità personale così impervia, se saremmo disponibili, e mi sembra che la provincia lo abbia dimostrato, ad investire ancora di più formazione, ricerca e sviluppo in nuove idee con le discontinuità necessarie, pur nel continuo di una provincia che è, malgrado tutto, così ricca di energie umane e di eticità. Molte grazie. Ed ora possiamo cominciare la proiezione.